Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24. Come avevamo annunciato ieri, come avevamo promesso ieri, questa mattina è venuto a trovarci Walter Mariotti. Walter Mariotti è il collega che si occupa di dirigere il è il mensile del Sole 24 Ore. Trovate il nuovo numero in edicola da venerdì, è in vendita sempre con il nostro quotidiano. Il, tanto per dare qualche coordinata agli ascoltatori, è un mensile che si stampa ormai dal settembre del 2008, quindi siamo attorno all'anno e mezzo. Walter, che è qui con noi questa mattina e lo ringraziamo, è con appunto è incaricato di questo mensile già dal 2007, però. Buongiorno innanzitutto, Walter. Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti. Allora, questo numero è un numero particolare perché avete deciso di parlare del ritorno all'agricoltura, del ritorno alla terra. Perché questo tipo di scelta? Ma ci siamo, essendo un mensile, noi cerchiamo di interpretare, di verticalizzare le tendenze che il quotidiano, il Sole 24 Ore, che sempre di più, insomma, un respiro internazionale, verso quei temi che possono riguardare gli interessi, le passioni, le sensibilità culturali dei lettori del Sole 24 Ore al di fuori dell'orario di lavoro. E quindi, dopo esserci occupati tanto dei risvolti finanziari, della bolla speculativa e di come erano cambiate le tendenze sociali, abbiamo pensato che un ritorno alla terra fosse importante. Da questo punto di vista, effettivamente è un ritorno alla terra, nel senso che dopo la speculazione, la virtualizzazione finanziaria che ha un po' colonizzato tutto il nostro immaginario, oltre che la nostra realtà, si assiste in varie parti del mondo, non solo in Europa, ma in Giappone, in Brasile, in Canada, in Africa, in Asia, a un ritorno, a un'attenzione da più punti di vista verso la terra, sia intesa come stile di vita, quindi ritorno alla terra, abbandono delle città e quindi nuova edenizzazione bucolica, eccetera, sia anche come sfruttamento del suolo, colonizzazione del suolo, agroimperialismo, qualcuno lo ha denominato, sia anche come sfruttamento intensivo del sottosuolo. I paesi ricchi che hanno ormai una tendenza di bocche da sfamare diverse la tendenza che adesso, insomma, anche in altre parti del mondo si mangia almeno due volte al giorno, hanno capito che c'è un'emergenza terra, un'emergenza territorio da coltivare, da sfruttare, e quindi si stanno dirigendo nel quarto e nel quinto mondo per acquistare terreni, a volte in maniera pacifica e contrattualistica, altre volte invece secondo i classici schemi delle guerre, che ormai sono guerre di ordine fiscale, commerciale, finanziario. Ecco Walter, infatti questi due aspetti, diciamo il ritorno a un'economia più solida forse dopo tanta carta e il malanno anche che ci ha portato la carta con la crisi finanziaria, la crisi economica poi, quindi da una parte il ritorno a valori, verrebbe da dire, più solidi, ma non, certo, nel senso morale, ma quanto di valori, certo, economici, dall'altra anche le difficoltà che possono insorgere perché i paesi ricchi chiaramente si comportano in modo imperialista, verrebbe da dire, sfruttando agroimperialista, sì, come dicevi tu, sono entrambi presenti in questo numero di Il. Ad esempio c'è una storia raccontata da Antonio Leonardo Favero che, sì, racconta il ritorno alla coltivazione del riso in Giappone. Ora il Giappone oramai nel nostro immaginario, certo, credo sia più che altro un paese ad alto contenuto tecnologico, capace di produzioni industriali anche molto sofisticate, e invece il titolo provocatoriamente che avete messo questa storia di Favero, il riso amaro, no, ora è sexy, non è solo una trovata di marketing. A Tokyo e nei dintorni si sono presi una cotta per la vita fuori dalle metropoli, una valida alternativa alla recessione imperante. Ecco, il testo è di Stefano Carrer, l'inviato del Sole in Giappone, esatto, e se vuoi parlarci di questo articolo, che tra l'altro è molto curioso, insomma molto interessante, come spesso accade alle cose che vengono pubblicate su Il. Diciamo che sta cambiando, la terra rientra al centro non solo delle strategie finanziarie ma anche delle strategie immaginarie, ovvero sta colonizzando, come direbbe Serge Latouche, l'immaginario giovanile, Tokyo, che è considerato giustamente un occidente estremo, cioè una interpretazione dell'occidente parodistica e parossistica, ossessionata dalla tecnologia. Si dice che in un quartiere di Tokyo all'inizio degli anni Ottanta Ridley Scott abbia avuto l'ispirazione per Blade Runner, quindi per questo futuro apocalittico in cui la tecnologia, ben prima di Matrix, ha ormai preso, diciamo così, il sopravvento sugli umani, sugli umanoidi. E effettivamente Tokyo è una città che ormai ha superato di 7 volte New York. Ci sono 7 piccole New York all'interno di Tokyo. Shibuya, per fare un esempio, c'ha un attraversamento pedonale dove sembra che ogni minuto ci passi un centinaia di persone, ecco, quindi tanto per dire, senza soluzione di continuità. In questa nostra visione del Giappone abbiamo ormai registrato da un po' di tempo, e Carrère lo racconta molto bene, delle inversioni di tendenza significative, cioè che il Giappone ritorna alla sua memoria, si potrebbe dire alla memoria mishimiana, di un luogo dove la tradizione legata alle attività agricole, naturalmente la prima di tutte il riso, ma non solo quella del riso, anche di tutte le verdure. Sappiamo bene che il pesce entra nella dieta giapponese soltanto recentemente, in termini storici, negli ultimi 200 anni, negli ultimi 300 anni, mentre invece soprattutto all'interno del Giappone erano legate la sussistenza del Giappone, della società giapponese classica, del periodo Edo, ma anche del periodo precedente, era legata a verdure, quindi a una dieta essenzialmente basata sul vegetariana. Questa è una tendenza che adesso sta affascinando molto i giovani, che rifiutano l'immaginario tecnologico, l'immaginario del design, che ancora, riuso questa parola, colonizza molto. Su questo noi vorremmo anche tornare, insomma, il nostro immaginario. Per noi il Giappone è un paese che è fallito, tra virgolette, da almeno 3 decenni, eppure continua a ispirare i design, continua a ispirare gli architetti, continua a ispirare i creatori di tecnologia. Eppure in questo momento c'è sempre di più, e i giornali ne danno poco conto, in questo ringraziamo anche il collega Carrère, sempre di più invece un ritorno, una fuga verso questi stili di vita che recuperano la tradizione giapponese, la tradizione del Bushido, la tradizione del samurai, che ha un senso e si inserisce in un contesto di armonia con la natura, come poi tutta la storia dell'arte giapponese racconta. Ecco Walter, tra l'altro questa nuova moda giovanile per una volta tanto è ben vista dalle autorità, perché come spiega Carrère l'agricoltura ha sempre sofferto, scrive Carrère, lo stigma delle 3K, sono 3 parole giapponesi che stanno ad indicare un po' le qualità non buone attribuite all'agricoltura: dura, sporca, pericolosa. Sono 3 parole, appunto, tutte e 3 cominciano col K. Risparmio ai vostri orecchi la mia pessima pronuncia del giapponese, però le autorità stanno invece cercando di assecondare questa nuova attenzione dei giovani nei confronti della terra, sostituendo queste parole con altre 3K, con altre 3 parole, esatto, che stanno per invece cool, cioè alla moda, di tendenza, emotivamente interessante e redditizia, perché addirittura potrebbe essere un'attività redditizia, o forse con meno rovesci, verrebbe da pensare, di quelli che abbiamo visto rispetto a certe esasperazioni finanziarie. Sì, quello che stavamo cercando di dire, cioè che prima di tutto la promozione di una vita all'esterno, legata alla natura, all'armonia con il paesaggio, con il territorio e con la storia, è un'operazione di tipo culturale, quindi di tipo di immaginario, cioè è molto più importante che i giovani capiscano e che si orientino verso dei valori storici prima ancora di fare una valutazione economica. Dall'altra parte, quello che abbiamo visto nella cronaca degli ultimi giorni, delle ultime settimane, Toyota che ritira le auto, i freni che non funzionano, la compagnia aerea che fallisce, fa capire che un certo immaginario meccanico, che dava un po' anche la misura, perché Toyota rappresentava anche un caso di studio di un'azienda, stato in cui poi si lavorava dalla tomba, dalla bara dalla, fino alla tomba, dalla no? culla fino alla dalla sì, appunto, fino dalla culla fino alla bara, è finita. Parlando, io sono stato in Giappone, parlando con i giovani, parlando con le ultime generazioni, ma anche parlando con i businessman che stanno riconoscendo, sono stato a Koyasan, che è uno dei centri religiosi del sud del Giappone, i manager stanno riscoprendo lo shintoismo e stanno riscoprendo tutta la dimensione religiosa. Prima si citava Mishima, addirittura arrivando a rivalutare il mito dell'imperatore. Quindi questo significa, dal punto di vista dell'osservazione delle tendenze culturali e quindi dei consumi, che sicuramente la crisi economica porta in auge degli stili di vita che possono essere attraenti, che possono essere sicuramente culturalmente sensati rispetto alla tradizione millenaria del Giappone, e poi da questo possono anche riscoprirsi economicamente importanti, economicamente validi, perché riscoprono un concetto di economia che è un po' diverso da quello finanziarizzato, per dirla con Tremonti, mercatizzato, insomma. Grazie Walter. Allora, questo e molto altro naturalmente nel numero di Il che trovate da venerdì con Il Sole 24 Ore. Noi salutiamo Walter Mariotti, lo ringraziamo di essere stato con noi ad aprire questa puntata di Magazine 24. Grazie a voi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, congedato Walter Mariotti, visto un po' quello che ci propone Il per questo mese, restiamo comunque all'estero. Perché? Perché ho trovato una consonanza di quelle divertenti che si rincorrono tra settimanali italiani e stranieri. È il caso del modello svizzero. Su Newsweek è apparso un lungo articolo di Dennis McShane. Dennis McShane è stato anche nel governo del Regno Unito e però ha vissuto e lavorato in Svizzera, quindi parla della Svizzera non solo con la capacità del politico ma anche con cognizione di causa. La sua tesi viene brutalmente riassunta dal titolo La fine della Svizzera. La crisi economica e la xenofobia crescente stanno abbattendo i grandi miti svizzeri e stanno smontando questo modello unico, assolutamente unico, di nazione. L'articolo, vi dicevo, è abbastanza lungo, quindi è difficile dare conto di tutti i vari argomenti, ma in sostanza quello che segnala McShane è questo. Ci sono alcuni capisaldi del vivere in Svizzera che sembrano messi a dura prova, che sembrano traballare. Uno di questi è appunto la tolleranza, perché la Svizzera è sempre stata un paese costituito da più lingue, da più nazionalità che erano però in grado di costituire invece una nazionalità unica, appunto quella svizzera. Anche il segreto bancario, che oggi è nel mirino come contrasto ai paradisi fiscali, ha avuto però durante il periodo della persecuzione nazista nei confronti degli ebrei il vantaggio di poter salvare anche di mettere al riparo le proprietà, i patrimoni di queste persone che venivano appunto messe in pericolo dai regimi nazisti e fascista. E l'articolo di Dennis McShane cerca di capire come mai questo tipo di paese si stia trasformando neanche troppo lentamente in invece un modello di poca tolleranza, un paese che più che accogliere sembra impaurito dalla provenienza degli stranieri. E dice: certo, la vecchia maniera di vivere, scrive McShane, è ancora valida. La Svizzera è comunque una nazione che si trova all'interno della comunità europea, dell'Unione Europea, però appunto anche nel rapporto con l'Unione Europea soffre il fatto di essere quasi un partner senza voce, un partner passivo, perché non facendone parte deve poi subire e accettare le decisioni che l'Unione invece prende per i suoi paesi e che finisce per imporre anche ai paesi che sono circondati dall'Unione, come capita alla Svizzera. Il resto del mondo può ancora fare il suo pellegrinaggio annuale a Davos, dove discutere i destini del pianeta, però i partecipanti a questi meeting globali sembrano avere sempre meno interesse, sono le parole di McShane, alla nazione nella quale si sta svolgendo quel meeting. E quindi, insomma, il modello svizzero in qualche modo sembra mostrare delle crepe. La tesi di McShane, curiosamente, appare suffragata da una piccola notizia, per carità molto piccola rispetto a queste considerazioni assolutamente di tendenza, che è comparsa sul venerdì con Repubblica. Caserme a pezzi, benzina razionata, l'esercito svizzero è in bancarotta. Anche qui una sorta di mito, un più piccolo mito rispetto certo a quelli dell'accoglienza, della tolleranza, della capacità di appunto accoglienza al suo interno che abbiamo evocato prima, però anche l'esercito svizzero sembra avere davvero dei grossi problemi dopo la crisi della Swissair, la fine del segreto bancario. Anche qui Lisa Grunenberg sul Venerdì torna su elementi già citati da McShane. Crolla un altro mito svizzero, l'esercito è sull'orlo della bancarotta. Abbiamo ordinato molti nuovi armamenti, ora vengono consegnati ma non possiamo pagarli. La frase pronunciata dal capo dell'esercito elvetico André Blattmann, che così ha commentato al termine del suo rapporto annuale la situazione economica delle forze armate. Tra l'altro Blattmann ha visitato le installazioni militari, ne ha ricavato, dice lui, un quadro desolante, edifici cadenti, materiali insufficienti, carburante quasi razionato, e alla fine ha confessato di sentirsi come un padre quando sfoglia un catalogo di regali di Natale per i figli, li ordina e però poi non sa come pagarli. Così il modello ora non è più quello del soldato sempre allerta, ma del l'impiegato che è abile nei conti. C'è appunto un collaboratore della difesa che recentemente è stato premiato con 11.000 franchi per avere proposto di rigenerare le gomme, gli pneumatici dei veicoli militari invece di sostituirli. Questo ha consentito all'esercito svizzero un risparmio annuale di quasi 2 milioni. Cambiamo completamente argomento per ricordarvi che oggi è San Valentino, certamente, ma invece oggi è il Capodanno cinese, quindi ancora restiamo all'estero, anche se cambiamo continente, torniamo in Asia dopo le incursioni in Giappone compiute con Walter Mariotti nella prima parte di questa mattinata. Il 14 febbraio a Pechino scatta il Capodanno, 240 milioni di cinesi si mettono in viaggio. Perché? Perché la tradizione prevede una festa di famiglia. Si ricorda di questa ricorrenza Vanity Fair questa settimana in edicola, che appunto spiega, affidandosi alla penna di Laura Fiengo, immaginate 240 milioni di persone che si mettono in viaggio nello stesso giorno. È quello che sta per capitare, è quello che capita oggi, anzi verrebbe da dire, il 14 febbraio in Cina, dove l'addio all'anno del bufalo e il benvenuto a quello della tigre coincideranno. Questo infatti che si apre oggi è l'anno della tigre. Oltre, coincidono appunto, oltre che con il nostro San Valentino, con un esodo epico. Il Capodanno cinese, adottato anche in Giappone, si festeggia riunendo le famiglie ovunque si trovino, quindi fabbriche e uffici chiusi, per molti è l'unica volta in tutto l'anno e tutti cercano di spostarsi in treno, in aereo, nelle campagne, anche insomma su carretti, visto che su 1.300 milioni di abitanti la Cina conta solo 65 milioni di possessori di auto, verrebbe da dire per ora, perché l'economia cinese, come sapete, sta crescendo a un ritmo vorticoso e quindi questi possessori di auto sicuramente aumenteranno moltissimo, stanno già aumentando moltissimo. Un aiuto alla migrazione, tra l'altro, è venuto persino da Google, perché Google ha lanciato un servizio speciale di orientamento per i viaggiatori. Fornisce tragitti, informazioni, mappe dedicate, e di certo a festeggiare saranno anche gli operatori telefonici China Mobile e China Unicom, perché hanno previsto circa 14 miliardi di sms di auguri in viaggio in questi giorni, cioè in occasione proprio della giornata di oggi, 14 febbraio, ma anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi. L'unico punto in comune con il nostro Capodanno, le altre feste, le altre celebrazioni che si svolgono sono abbastanza diciamo più simili quasi al nostro Natale, perché l'uso è di rendere omaggio agli dei del cielo, di visitare i parenti anziani, scambiarsi bustine portafortuna, insomma più simile alla festa in famiglia che non al nostro Capodanno occidentale. Però c'è un punto in comune, scrive Laura Fiengo, il rosso e i fuochi d'artificio. Si indossa il colore della buona sorte e quanto ai fuochi, per la tigre hanno venduto fuochi d'artificio per celebrare appunto l'avvento dell'anno della tigre per 2 milioni di dollari, ed è l'80% in più di quanti erano stati venduti per celebrare il Capodanno precedente. E allora, con questa segnalazione sul Capodanno cinese, il tempo a nostra disposizione è praticamente esaurito. Naturalmente c'è un'altra cosa che succede questa settimana, è il Festival di Sanremo. Vi rimando per tutte le spiegazioni, non solo a Sorrisi Canzoni TV, ma anche a Famiglia Cristiana, che dedica un bel inserto al Festival di Sanremo, che comunque là possiamo pensare rimane un momento fondamentale delle nostre abitudini proprio temporali, anche se non di quelle musicali. E, ripeto, il tempo a nostra disposizione è praticamente scaduto, quindi io ringrazio Pietro Lacorte che mi ha assistito in regia, Manuela Sicuro e Vittoria Mussini nella preparazione di questo programma. Vi ricordo che anche questa puntata, come tutte le altre, è a vostra disposizione sul sito di Radio 24, www.radio24.it, per chi volesse risentire questa stessa puntata. Vi do appuntamento a sabato prossimo.